Oh. il proprio zero Vittoria non abbastanza da bere non è tardi nessun timor il conte in casa era col sole e l'ultima sua notte di libertà domani prende moglie di già la principessa Fedora a Roma Zos quella vedova fretta ricca passabilmente 14 milioni salute a tempo il conte un capo scarico le donnine le carte le bottiglie i cavalli niente si stava freschi si stava freschi e dove si assorbi al padrone alla sposa alla voce a noi silenzio ricapitato no La principessa su sveglia di trone. Regina, io sono la

Oh,

ansia. Partita. A mezzanotte. E domani. Poi vedremo allora. Addio, addio. La prova domani, qui stesso. Stanotte!